chi, provenendo dall'autostrada che collega Milano a Gravellona Toce, decidesse di entrare nella città di Arona, si imbatterebbe presto in un cartello che segnala sulla destra l'esistenza di un maglificio San Carlo. Si renderebbe conto, questo viaggiatore, di trovarsi di fronte ad una solenne impostura e ad un vile sopruso della storia. Se ne renderebbe conto se qualcuno, con memoria lunga e cuore puro, gliela raccontasse questa storia. Carlo Borromeo nacque nel 1538 ad Arona, baciato in fronte, come assicura la bolla papale della sua canonizzazione, ottenuta nel 1610 al suon di 10.000 scudi d'oro. Baciato in fronte nacque da un raggio luminosissimo con cui l'Onnipotente preannunciò lo splendore della futura eccelsa santità. Con uno zio papa, Giovanni Medego, in arte Pio IV, fratello del tagliaborse Medeghino, la sua carriera era assicurata come l'agiatezza per la famiglia e le successive sue generazioni. Cardinale dunque a 23 anni, prima ancora di essere fatto prete, va a Roma e comincia a darsi da fare. In breve eccelle nell'arte della persecuzione, della tortura, dell'arrostire esseri umani sulle pubbliche piazze. Odia in particolare luterani, valdesi e altri eretici, nonché ovviamente le donne. Nel 1566, l'anno dopo del suo arrivo con tanto di scorta armata a Milano come legato pontificio, muore lo zio, ma Carlo non vacilla e riesce a far eleggere un suo caro amico, il domenicano Michele Ghislieri, già inquisitore generale della Chiesa, assassino sanguinario, feroce antisemita, e col nome di Pio V ovviamente santo anch'esso. La sua è la biografia tipica dei potenti, trame oscure in nome del potere temporale, stragi, sopraffazioni, accumulo di ricchezze altrui indossando la maschera dell'intransigenza morale. Fra i miracoli che gli vengono ascritti, alcuni davvero quisquilli e pinzillacchere dubbi e di dubbio gusto, come quello che l'avrebbe visto ridonare il sollievo alla fanciulla succhiandone la mammella dolorante, ce n'è perfino uno autoriflessivo di questi miracoli, perché il miracolato è, ma guarda un po', lui stesso. E qui ci avviciniamo alla faccenda del maglificio. Nella notte del 26 ottobre del 1569, tal Gerolamo Donato, detto il Farina, un frate dell'antico ordine degli umiliati, entra in arcivescovado nascondendo un archibugio o un archibugetto, coglie Carlo assorto in preghiera in una cappella circondato da un folto manipolo di famigli, sfodera l'archibugio, prende la mira ed esplode il colpo. L'archibugio era carico di palla e di quadretti. La mira era buona, ma forse la distanza eccessiva. Oppure la mira non era affatto buona o l'archibugio era da buttare. Fatto sta che il santo disse di aver sentito all'improvviso una percossa in un osso del filo della schiena e che, fidandosi delle cronache interessate, al massimo l'archibugiata gli procurò un lieve gonfiore. Un miracolo balistico, insomma, l'ennesimo caso di inettitudine sfoggiata dall'esigua e già rognata categoria dei riparatori di torti. Più miracoloso è il fatto che il Donato, approfittando dello stupore dei presenti, riuscì momentaneamente a dileguarsi. Momentaneamente perché nell'aprile successivo, dopo lunghe indagini e grazie ai pentiti di turno, venne preso e tradotto a Milano, rinchiuso nelle carceri vescovili e tormentato fino al 2 agosto, quando, soddisfatta la sete di vendetta di Carlo Borromeo, dopo avergli tagliato la mano destra, venne impiccato in piazza Santo Stefano con altri compagni di sventura. Tutta la vicenda è raccontata con scrupolo storico e grande onestà intellettuale da Oreste Clizio in un libretto intitolato Il Gerolamo Donato, detto il Farina, l'uomo che sparò a San Carlo, edito un anno fa dalle edizioni La Baronata di Lugano e dalla cooperativa tipo litografica e di Carrara. E nonché è anche raccontata la vicenda con qualche imperdonabile superficialità liberal borghese e brillantezza letteraria da Piero Chiara in Sotto la sua mano, molto sommariamente poi anche allusa in Sale e tabacchi. Indagando sui motivi che potrebbero aver spinto il Donato allo sfortunato attentato, viene alla luce che l'Ordine degli Umiliati, di cui Carlo Borromeo si era fatto nominare protettore, costituiva non solo un pericoloso concorrente di prestigio sulla piazza di Milano e un concorrente riottoso alla disciplina e poco addomesticabile, ma anche un ghiotto impero economico da espropriare. Un impero economico, peraltro, fatto essenzialmente di lana. Lana pregiata, che una volta confiscata per ordine superiore prenderà la forma di mantelle e di berrette che, come fa ironicamente notare Clizio, da allora saranno universalmente reclamizzate, queste berrette, col nome di Borromee. Gerolamo Donato dunque cercava di fermare una rapina in corso e, fallendo, non ha fatto altro che accelerarla conferendole dignità di atto dovuto. L'Ordine degli Umiliati, ormai decaduto e tralignato, come ha il coraggio di recitare tuttora il Dizionario dei Santi, fu infatti soppresso, i suoi beni, come di prammatica, incamerati. Una mano rispettosa delle vicende umane allora farebbe bene ad arricchire quel cartello in Arona. Maglificio San Carlo, alla faccia degli umiliati. Carlo Borromeo è morto il 3 novembre del 1584 e lo si festeggia, penso l'evento, non il santo, lo sa Dio perché il giorno dopo. In questa settimana appena trascorsa, fino a venerdì, nel Duomo di Milano, secondo tradizione, sono stati esposti 48 dipinti relativi alla vita e ai miracoli di San Carlo. Sono andato a vedere e ho potuto constatare che nessuno di questi rappresenta la succhiata miracolosa del seno dolente della fanciulla. Invece, ultimo, ben nascosto al fondo della navata laterale di destra, ho potuto ammirare un dipinto attribuito non senza consistenti dubbi a Giobatta Crespi, detto il Cerano. Un dipinto che rappresenta la scena dell'attentato. Il santo ha la chierica avvolta da un'aureola salvifica e offre la schiena al Farina, che niente affatto fratesco è rappresentato come un bravaccio mercenario, contraddittoriamente privo di quegli indumenti, cioè sotto i quali, entrando indisturbato nell'arcivescovado, avrebbe potuto celare gli archibugi. Dal 1698, sull'altura di Arona, domina invece il cosiddetto San Carlone, in nulla peraltro somigliante all'originale, nel tentativo di conferirgli una bonarietà che il volto del santo si guardava bene dal manifestare nel ritratto dal vero che possiamo vedere ancora oggi di Ambrogio Figino. San Carlone si tratta di un'enorme statua alta 23 metri e 40 centimetri, posta su un basamento di granito di 11 metri e 70 centimetri, meta quotidiana di pellegrini felici di credere che il santo abbia fatto del bene. In Sotto la sua mano, Piero Chiara, con una malizia che, non dicendo le cose come stanno, rischia di risultare mera benevolenza, sostiene la remota tesi che il materiale occorrente alla statua sia stato ottenuto fondendo il membro virilissimo del colosso di Rodi. Giovanni Paolo II dice spesso che la Chiesa deve chiedere perdono di qualcosa a qualcuno, non al Donato, né alle migliaia di vittime di San Carlo, comunque, di cui anzi ancora nel 1984, nel 400° anniversario della morte, il Papa ha lodato la figura e omaggiato il sarcofago. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know.